o è pagato come attuale parlamentare. Ma lei ha fatto ricorso insieme ad altri parlamentari siciliani. Vuole tutte e due, è così? Sì. E perché li vuole tutte e due? No, io ho fatto ricorso per un motivo di principio, perché io ritengo che la situazione doveva essere affrontata su scala nazionale, che non è un problema che riguarda solo la Sicilia, è un problema che riguarda l'intero paese, e un provvedimento di questo genere non può essere gestito solo, limitato a 6 persone, 7 persone in totale. Ma credo che le altre delle altre regioni non possano cumulare, cioè era solo in Sicilia. Lei crede male. Credo male. Sì. Cioè ci sono crede male. Ci sono parlamentari che attualmente prendono anche il vitalizio come ex consiglieri regionali in altre regioni. Esatto. Ah, e per questo lei dice lo vogliamo anche noi a sto punto. No, io dico che il problema deve essere affrontato su scala nazionale, per il principio. O lo date a tutti o va rivisto su scala nazionale per il meccanismo. Ma lei in linea di principio il fatto di poter avere uno stipendio da attuale senatore e uno stipendio e un vitalizio come ex senatore, come ex deputato, capisce che è un ossimoro, cioè o uno è ex o uno è pagato come sì, attuale. Sì, non lo capisco, il problema è che fino ad ora è stato così. Io non sono contrario al fatto che si razionalizzi la spesa per, diciamo, per l'attività istituzionale. Avrei gradito che la Regione Siciliana si fosse messa in sintonia con il resto del paese e avrei gradito che la Regione Siciliana avesse fatto un piano di abbattimento, diciamo, dei costi delle attività politiche in maniera più, come si dice, più adeguata, e non si fosse limitato solo a tagliare la retribuzione, le indennità degli ex parlamentari. Quindi lei in linea di principio rivuole questi, io intanto tra l'altro li devo rivoglio, dire, li rivorrò. Li rivorrà, ha fatto ricorso alla Corte dei Conti, lei li rivorrà questi 4.200 euro al momento sospesi. Quando saranno? Tenga conto che il prossimo anno io torno, finisce la legislatura parlamentare nazionale, per cui dovrei rientrare nel diritto di percepire quella regione. Quella della regione, sì, infatti. Però, senta, non le sembra di apparire un po' in questi tempi di vacche magre? Un sì, po'? Mi sembra perfettamente, ma il problema, le ripeto, non è un problema di 6 persone, il problema è che la regione avrebbe dovuto, se mi permette, fare un piano di tagli, a cominciare dall'indennità dei presidenti, e non limitarsi a dire che ha fatto i tagli solo perché ha levato il vitalizio a 11 parlamentari. Ma questo è un po', come si dice, benaltrismo, cioè inizino anche gli altri, eccetera. Cioè uno faccia no, un sacrificio. Sì, io lo faccio, ma non è che facendo io il sacrificio. Che poi sacrificio è pagato da senatore, è una bella paga, non è che... Sì, sì, no, ma io non ho problema della paga, non me lamento della retribuzione. Tra l'altro abbiamo avuto dei tagli, ora i vitalizi non ci sono più, ora sono fatti in maniera completamente diversa, per cui si è messo in moto un meccanismo del tutto diverso. E non è questo che sto contestando. È la questione di principio. Il principio. Tenga conto che il ricorso è fatto alla Corte dei Conti, che se va bene avrà effetto fra 10 anni. Ah, la Corte dei Conti, figurarsi, quelli, no? Hanno altre cose da fare. Hanno altre cose da fare che pensare al suo ricorso e quello di 5 parlamentari. Poi è un fatto di principio, per dire, questo voi non lo potete fare perché ho un diritto a questo. Ma lei non si sente così di far parte della cosiddetta casta politica? No, guardi, io la mattina mi alzo, finisco di lavorare la notte. Per cui questo problema di sentirmi casta non c'ho, sempre a disposizione dei cittadini. Non ha questo problema. Incontro migliaia di persone al giorno. Le devo chiedere anche questo come cortesia. Noi con la nostra redazione l'abbiamo contattata e lei ha detto: io posso fare l'intervista solo oggi, quando la stiamo facendo, perché sì, solo oggi sono a Roma. Sì, perché sono stato fuori e sono, lo sapete, sono stato all'estero. Sì, è stato all'estero per il Senato. E poi sì. Cioè ci va spesso a Roma al Senato. Ogni settimana. Quindi. Solo che a casa non ho il telefono fisso e abito in campagna. Il telefonino non picca. A proposito di campagna ed Enna, com'è finita quella vicenda per cui l'hanno rinviata a giudizio per abuso d'ufficio, perché sarebbe stata pavimentata a spese della provincia una strada comunale che arriva a casa sua? Ah, questo lo deve chiedere al giudice. Non sa ancora. Non riescono a trovare un modo per potermi condannare, perché siccome lì non ci abito io, solo io, ci abitano altre 100 persone. Non ti capisci perché la strada l'hanno fatta a me, non l'hanno fatta per tutti. Ah, dovevano indagare anche gli altri 99, cioè le dici. No, dovevano prendere atto che quella è una strada pubblica, che collega una strada statale con un'altra strada statale. E io ci abito lungo il corso. Solo questo dovevano fare. E quindi non indagare me? Non indagare nessuno. Perché la strada è statale. Strada pubblica. Senta, lei, per tornare invece alla questione stipendi, lei, vabbè, l'ha fatto per una questione di principio, arriverà, se arriveranno tra 10 anni. Comunque lei non le sembra di così dire, ci sono i pensionati che perdono il lavoro. Ieri a Gela si è suicidata una pensionata che gli hanno tolto la pensione da 800 a 600 euro. E io sono d'accordo con il suo originale. Io non ho problemi. Il problema è una questione di... Anche quella signora hanno tolto il diritto acquisito. Il suo è un diritto acquisito e quindi... Poi se dobbiamo versare allo Stato, io non ho problemi, non è che non ci pago le tasse, ce le pago. Non è... Il problema è che l'Assemblea non può procedere in questo modo. Non può procedere così, insomma. No, perché se il Presidente continua a pigliarsi l'indennità piena vuol dire che non è un problema di... Senta, senatore, per concludere, lei dice non trovano un modo per condannarmi. È finita anche quella vicenda del 2001 quando c'era una telecamera alla ripresa colloquio con un boss mafioso? Questo si è scriviato dopo 2 mesi. E che ci diceva con quel boss mafioso? Perché l'hanno ripresa con un boss mafioso? Perché non lo so, questo non era riferito a me l'intercettazione, lì stavano... No, ma perché lei era lì, cioè a parlare con un boss mafioso, questa è la domanda. La boss mafioso si è dimostrato che lui era dopo, quando è stato condannato. Ah, lei l'ha incontrato senza sapere che fosse... Io ero al congresso della CGIL. Ah, e lui? È venuto al congresso della CGIL, mi ha aspettato davanti alla porta e mi ha chiesto di incontrarlo 5 minuti in presenza di centinaia di quadri del sindacato. Per cui non era né un incontro clandestino, né un fatto apposta. Cioè l'ha incontrato in un convegno della CGIL. Tanto che lei ci ha ironizzato, posso dire ironizzato, ha fatto un film lei. Ha fatto la parte di un boss mafioso, è vero, in un film? Una piccola parte. Ho fatto la parte, sì, certo. La bella società. Ma perché l'ha fatto? Voleva così esorcizzare? Voleva esorcizzare. Va bene, senatore, io la ringrazio, ci faccia sapere se tra 10 anni la Corte dei Conti ha... Se lei mi lascia il suo recapito, io spero intanto di essere in condizione fra 10 anni di rientrare. Va bene, la ringrazio, grazie, spero di essere in condizione anch'io. Grazie al senatore Vladimiro Crisafulli del Partito Democratico per essere stato con noi. Allora, la pubblicità e il meteo e poi parliamo del terremoto Lega. La Lega su tutti i giornali oggi, il terremoto, tesoriere indagato perché l'accusa aver preso soldi dati dai rimborsi dei partiti, dunque soldi pubblici, soldi nostri nelle casse della Lega, averle usato per sé e per la famiglia Bossi. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:35 minuti. Sono arrivati una valanga di messaggi per l'intervista al senatore Vladimiro Crisafulli che appunto poco fa ci ha detto come da ex deputato della regione Sicilia ha un vitalizio maturato, che vuole cumulare diritto acquisito, una questione di principio, con l'attuale stipendio da senatore. Ne vuole 2 e ha fatto ricorso alla Corte dei Conti. Io lo ringrazio solo per una cosa, devo fare questa appendice, perché abbiamo contattato tutti e 6 i parlamentari che sono siciliani, che sono nella sua stessa condizione. Tutti hanno millantato scuse, cioè no, non parlo, vi querelo, eccetera. Il senatore Crisafulli almeno ci ha messo la faccia e ci ha spiegato qui il perché. Poi ognuno giudichi come vuole. La Lega, allora, l'inchiesta che ha messo nel mirino il tesoriere, ex tesoriere si può dire, visto che si è dimesso, Francesco Belsito, l'accusa appropriazione indebita, aver utilizzato fondi del partito per sé e per la famiglia Bossi, del leader Bossi. Anche accuse molto dure, cioè avere contatti con uomini in collegamento con l'Andrangheta, insomma qualcosa di, io chiedo, insopportabile per la Lega. Ne lo chiedo a Gianluca Pini, onorevole della Lega Nord. Buongiorno onorevole Pini, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Con lei voglio salutare anche l'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori, ben ritrovato anche. Buongiorno, buongiorno. Pini, cosa fa più male nel leggere i giornali? Intanto lo dica subito, se pensa che possa essere un complotto, perché le frasi a dire notiamo la coincidenza per cui avvengono queste cose, quando, è un complotto oppure no? No, io non penso che sia un complotto, anche perché la portata, la delicatezza, i dettagli anche che emergono in questa fase iniziale dell'inchiesta non fanno pensare, o perlomeno mi auguro che non sia così, perché anche tutto il risalto mediatico che è stato dato da una inchiesta che pare essere in fase di indagini preliminari, anche per la procura, se poi fosse una bolla di sapone sarebbe un boomerang, quindi non penso al complotto. Sui tempi io ho un'altra idea, certamente, cioè? Certamente il fatto della quasi concomitanza con l'inizio con l'inizio della campagna elettorale possono far sorgere alcuni dubbi. Io invece penso che sia semplicemente perché, basandosi da quello che ho potuto capire, leggere e ascoltare dai giornali e telegiornali, l'inchiesta su eventuali distrazioni di fondi relativi anche al bilancio 2011. Il bilancio 2011 di ogni partito e movimento politico doveva essere depositato entro il 31 di marzo alla Camera e al Senato. Sì. Probabilmente c'è stata questa attesa da parte degli inquirenti di capire, visto che poi il 4 aprile sono partiti, per acquisire effettivamente un documento di carattere. Però le chiedo che cosa questo tipo di coincidenza di date, La coincidenza forse è legata più a tempi di indagini che hanno scelto gli inquirenti. Le chiedo questo: cosa le fa più male oggi leggere? L'idea che i fondi siano distratti per anche la famiglia Bossi e dunque del vostro leader, oppure il collegamento ipotizzato con l'Andrangheta, che fa scrivere oggi a Saviano su Repubblica, io l'avevo detto un anno fa, che anche con la Lega parla l'Andrangheta e adesso mi accusano e adesso ci sono le prove, e adesso la Lega non potrà più manifestare la propria diversità sul tema mafia. Questa è la cosa le fa più male di quello che legge sui giornali? Ma guardi, farà male tutto se verrà effettivamente dimostrato vero e concreto come castello accusatorio. Le parole di Saviano, guardi, uno che ha fatto la propria carriera sulla titolarità quasi esclusività della morale dell'antimafia, oddio, massimo rispetto, però non è l'unico a aver svolto qualcosa nel contrasto alla mafia. Se c'è una persona che in questi ultimi 4 anni ha portato dei risultati molto più concreti delle chiacchiere di Saviano, si chiama proprio Roberto Maroni, perché è il ministro dell'interno che più di ogni altro nella storia ha portato dei risultati, quindi io guardo i numeri, non alle chiacchiere. Poi dopo, se lui vuole in qualche modo, se Saviano vuole in qualche modo giustificare quella sua uscita infelice che fece durante la trasmissione di Fazio, della quale poi dovette chiedere scusa perché accusava in generale. Oggi su Repubblica dice si è dimostrato che avevo ragione. No, però si è dimostrato un bel nulla, perché a quello che risulta, perché ripeto, stiamo sempre parlando di indagini, di indizi, e nel momento in cui ci saranno poi delle prove ci potremo anche sedere e discutere, però al momento non c'è nulla. Sono indagini in fase preliminare. Al momento quello che risulta è che c'è una persona che era in collegamento con una seconda persona che a sua volta poteva forse essere in collegamento con. Vabbè, certo, insomma, dà un fastidio enorme. Questo non c'è il minimo dubbio, però quello che posso dire è che la Lega comunque è, come ha giustamente fatto rilevare non solo Maroni ma anche altri colleghi, è in questa vicenda assolutamente la parte lesa. La Lega e tutti i suoi militanti, le decine di migliaia Che si sentono assolutamente. Su questo è un altro aspetto, su quello che succederà adesso della Lega. Però mi lasci dare un attimo la parola all'onorevole Borghesi. Onorevole Borghesi, le vorrei chiedere due cose: sia un commento su quello che legge sulla Lega, sia sul fatto che adesso l'Italia dei Valori dice, e lo faranno credo anche i radicali, raccoglieremo le firme per togliere questa truffa dei rimborsi ai partiti. Tanto, voglio dire, è stato già fatto in passato, poi li avete rimessi come politica, come classe politica. Quindi vuol partire da che cosa? Dalla Lega? Dalla Lega? Sì, Roma ladrona, le do un assist. Roma ladrona. Pronto? No, le do un assist, dicevo, Roma ladrona e poi no, anche la Lega. Ma non è questo, credo che intanto bisogna anche in questo caso lasciare che la magistratura faccia quello che deve fare. Certo, il fatto che siano interessate magistrature di territori che sono in qualche modo legati alla criminalità organizzata lascia pensare che ci siano elementi non soltanto di, come dire, di uso non congruo del denaro pubblico, ma anche altro. Ma è una vicenda che segue la vicenda Lusi di poche settimane. Quello che io vorrei sottolineare è che purtroppo quei finanziamenti ai partiti che quel referendum ha cancellato, ma che sono rientrati sotto forma di rimborsi elettorali, hanno qualcosa di grave in più, e cioè che vengono assegnati la facilità, la leggerezza con cui vengono assegnati, l'assenza di regole nella gestione di quel denaro, l'assenza di verifiche, di certificazioni dei bilanci dei partiti. Ecco, noi in questo senso noi abbiamo anche depositato una nostra proposta di legge che mira proprio ad intervenire su questi aspetti, cioè sul fatto che ci sia una sezione della Corte dei Conti che controlli l'uso di questo denaro, così come i rendiconti delle spese elettorali, e che anche l'accesso a finanziamenti pubblici di qualsiasi genere da parte dei partiti possa venire solo anche attraverso questo tipo di controlli. Poi, ma invece perché volete fare il referendum per cancellarli? Ecco, cioè un finanziamento alla politica, io credo che i cittadini siano disposti a dare un finanziamento alla politica se poi sono gestiti in maniera, se è congruo il finanziamento, se è gestito in maniera corretta, limpida. Forse lo erano, io credo che in questo momento se chiediamo un cittadino, la distanza tra politica e cittadini è oggi siderale, e credo che in questo momento, anche alla luce di questi scandali ripetuti, credo che in larga parte i cittadini direbbero no, anche se capisco che sotto un altro profilo in qualche modo la politica non si possa fare gratuitamente, però credo che si possano trovare altre forme anche qui trasparenti, perché anche il dire semplicemente che i partiti, anche su questo, come dico, noi abbiamo già depositato in Cassazione il quesito referendario, e quindi sicuramente faremo questa raccolta, però è chiaro che il problema resta e che potrebbe essere risolto anche con i contributi da parte dei militanti, dei privati, ma in forma molto molto trasparente, sì. E poi con controlli stretti, revisori. Ma infatti io dico quello, cioè è chiaro che la distanza siderale tra partiti e opinione pubblica, però se venissero dati non i rimborsi come adesso, cioè che investite partiti un euro e ne prendete quattro di ritorno, il rimborso vuol dire che se uno investe uno, certo, prende uno, e certo, se fossero controllati meglio, io credo, certo, che i cittadini italiani, che capiscono benissimo, sono molto intelligenti, sarebbero disposti a dare una sorta di finanziamento corretto alla politica. Io penso di sì, anche se bisogna che dopo tutto quello che è avvenuto una cosa del genere va spiegata in modo molto chiaro, con grande trasparenza, con grande, sì, possibilità per gli stessi contribuenti di controllare in forma diretta. Oggi ci sono strumenti come quelli telematici, come l'uso di internet, perché si possa controllare online quello che fanno i partiti e le modalità con cui i partiti li usano. Cioè non c'è solo bisogno di un controllo formale giuridico da parte della Corte dei Conti o di altri organi, ma deve essere garantito anche un controllo sociale diretto da parte dei cittadini. Allora, in queste condizioni potrebbe pensare. Sentiamo le informazioni sul traffico. Per qualcuno dice, si legge sui giornali, questa vicenda comunque finirà, è la fine della Lega di Bossi. Tra poco lo chiederò all'onorevole Pini. Allora, 800240024, darei la parola ad Alvise da Venezia, ci ha chiamato. Alvise, buongiorno. Sì, buongiorno signor Milan. Che dice? Vorrei fare una domanda a lei a sto punto. Sì, Io non capisco una cosa, ma ogni volta che vengono pescati con le mani sul sacco dei politici o dei senatori, facciamo l'esempio di Lusi, perché non vengono espulsi o radiati? Cioè, mi spiego meglio, adesso abbiamo Lusi che è inquisito. Beh, Lusi è stato espulso dal Partito Democratico. È stato espulso, però si è dato una risposta. Sì, sì, mi scusi, noi continuiamo a pagarlo 15.000 euro al mese, cioè dovrebbero anche non pagarlo più, perché una persona rea confessa, adesso chiaramente la magistratura farà i suoi accertamenti, ma perché continuiamo a pagare una persona che ha rubato 15.000 euro al mese? Io capisco lo sfogo, lo stipendio, che le piaccia o no, lo stipendio del parlamentare è uno stipendio che finché uno è parlamentare e lo rimane, non solo deve essere dato, è irrinunciabile per Costituzione, irrinunciabile, cioè se anche Lusi volesse rinunciare allo stipendio non può, capisce, paradosso, però è così Alvise, però capisco il suo sfogo a dire, se, a parte che bisognerà vedere, cioè se no si fanno le sentenze dopo un giorno, non è stato stabilito che Lusi ha rubato nulla, ci sarà un processo, questa è l'accusa. Walter da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io voglio spostare un po' l'attenzione perché c'è in corso una indagine della magistratura, non voglio intervenire su queste gravissime accuse, ma da un punto di vista politico mi rendo conto che abbiamo attraversato una stagione buia, triste, dove qualcuno rivendicava secessioni, regioni, province, non esistono, realtà, culture, celti. C'è qualcosa di molto profondo in questo malessere, secondo me, che va al di là dell'aspetto economico e finanziario. È un modo di intendere l'Italia, la cultura, dove si soffia sull'ignoranza di tanta o poca gente che probabilmente si è fatta illudere da chissà quali prospettive. Cioè lei ce l'ha con una sorta di, quella che dice, una propaganda falsa della Lega su secessione, celti. Sì, certamente, tutto doveva servire a finanziare queste falsità, queste illusioni, e quindi si sono cercati finanziamenti forse non leciti. Beh, l'accusa non è di aver avuto finanziamenti illeciti, l'accusa è di aver utilizzato da parte del tesoriere i finanziamenti leciti per legge per scopi personali suoi e della famiglia Bossi. Però le risponde l'onorevole Pini. Onorevole, poi le chiedo io se la Lega di Bossi è finita dopo questa vicenda. Però Walter da Firenze dice è un po' un crollo di tutta un'illusione di anni, di una propaganda finta, la secessione, i Celti, l'indipendenza della Padania, eccetera, per avere in realtà, essere un partito come gli altri, cioè vivere di soldi, guardi, fondi pubblici. Magari questa è una pia, per quanto legittima, illusione dei nostri detrattori, ma la Lega non è finita, la Lega ha al proprio interno assolutamente gli anticorpi per reagire a questo tipo di problemi che possono nascere e purtroppo sono sorti anche all'interno del nostro movimento, ma non come regola ma come assoluta eccezione, perché è la prima volta che andiamo ad affrontare un problema, se poi verrà effettivamente assodato come reale, così difficile, ma ripeto, gli anticorpi all'interno del movimento ci sono e al di là di tutto la notizia positiva delle dimissioni di Belsito rese ieri sera, quindi nell'arco di poche ore dalla richiesta fatta tanto da Alberto Maroni quanto dallo stesso Umberto Bossi, aprono poi, al di là di quelle che sono le doverose verifiche che la magistratura dovrà fare, una necessità di una nomina di un nuovo amministratore e di un movimento interno affinché non venga lasciato nessun dubbio su come effettivamente sono stati spesi. Ma secondo lei non è finita la Lega, ma non è neanche finita la Lega di Bossi? Cioè ci sono sui giornali racconti di spese, guardi, che sarebbero usate, guardi, per i figli, per la moglie. Non lo so, io conosco Umberto da 21 anni, non mi sogno neanche di pensarlo che quello per cui lui è accusato sia vero. Le altre persone non le conosco, le conosco molto superficialmente, quindi non posso esprimere su Bossi parere. Lei mette la mano sul fuoco. Qui sarà la magistratura eventualmente ad appurare se ci sono responsabilità oltre quelle di Pesito, posto che effettivamente anche lui abbia tutte le responsabilità che gli vengono ascritte. Però vorrei tornare un attimo sulla questione che sollevava Borghesi. Io sono disponibilissimo, Borghesi mi conosce, lo sa, a qualsiasi tipo di ragionamento. Nel momento in cui sorgono problemi anche di immagine, non solo per un movimento ma per tutta la politica, a mettersi di buona lena e velocemente dare una risposta, no? Perché la cosa importante per la credibilità della politica è riuscire a dare risposte in tempi anche brevi. Ma no? Loro vogliono cancellarlo, cancellarlo, aspetti, loro aspetti, vogliono. Finisco Milan, cortesemente. Loro dicono che è uno scandalo, che lo vogliono cancellare. Al di là che se si vuole arrivare a un punto concreto di soluzione, di risposta al problema, non si può sempre utilizzare la demagogia e il populismo, perché chiedere una raccolta di firme adesso per un referendum abrogativo è un esercizio di ipocrisia, perché si sa benissimo che a scadenza naturale della legislatura questo referendum non si potrà mai svolgere, sì, o perlomeno dovrà essere rimandato sine die, quindi è in qualche modo un buon veicolo di propaganda elettorale lecito, però bisogna anche spiegare alla gente. Però che mi faccia rispondere su questa cosa. Borghesi, no, ma che sennò un minuto devo chiudere, altrimenti Borghesi risponda sul quinto. Cioè noi vogliamo essere pronti a farlo col referendum. Capisco anch'io che evidentemente, essendoci le elezioni l'anno prossimo, non si potrà fare l'anno prossimo, ma diventa ineludibile l'anno successivo, per cui non è che noi lanciamo il sasso e poi tiriamo indietro la mano. Una volta che una cosa del genere è partita, parte e arriva fino in fondo e arriva fino al giudizio degli elettori, per cui essere accusati di populismo per questa cosa qui non mi interessa. Noi abbiamo fatto tante proposte referendarie in questi anni e alcune di queste sono state anche approvate dalla gente e non ci spaventa. Però su questo cavalcate un po' l'onda, no? Cavalcate l'onda, vedete le notizie, volete fare il referendum. Noi siamo arrivati in Parlamento nel 2006, stiamo qui da 5 anni, prima non c'eravamo, non nasciamo dalla spaccatura di qualche altra formazione politica, siamo un movimento autonomo come lo è stato la Lega 25 anni fa, siamo un movimento autonomo, per cui non abbiamo paura a voler cambiare le regole del passato, sì, perché credo che proprio siano quelle regole sbagliate che hanno poi portato la gente ad allontanarsi così tanto dalla politica. Noi speriamo ancora che tanta gente creda nella nostra, come dire, nella nostra franchezza e nella nostra volontà di cambiare realmente. Allora, dobbiamo fermarci qui, ringraziando l'onorevole Gianluca Pini della Lega e l'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori. Ci trovate anche su Twitter, Etalino Milan, questo sono io, e @24 mattino la trasmissione. A domani.